Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo pronti dal Groove Master Studio per dare il via alla puntata numero 216 del nostro Soundcheck, la prova del suono qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera all'immancabile Francesco Tromba, molto felice oggi. Perché? Perché c'è la presenza in studio di due ospiti importanti. No, puoi essere più preciso, di due belle ragazze. Sì. Due belle ragazze, perché abbiamo invitato tutta questa bellezza, e tra l'altro parliamo naturalmente di musica perché vi stiamo parlando di una violoncellista, pianista, arrangiatrice, compositrice, a tempo perso anche attrice nonché mamma, e poi di una pianista, cantante di jazz, affermata con una bellissima voce e tante idee. Parleremo con loro oggi. Perché le abbiamo invitate? Perché anticipiamo la festa della donna. Perché noi ragazzi dello swing viviamo in anticipo sui ritmi e quindi anticipiamo la festa della donna, che poi ci sarà domani, e quindi la puntata la realizziamo oggi. Sì, dedichiamo questa puntata appunto a analizzare il ruolo della donna nella musica anche. Parleremo del ruolo della donna nella musica con Giovanna Famulari in person, violoncellista, pianista. Qual è il ruolo che preferisci, Giovanna? Violoncellista sicuramente. Violoncellista, sì. Giovanna, però hai fatto anche l'attrice, ho letto. Ma perché in alcune occasioni in teatro, suonando durante gli spettacoli, mi dicevano: puoi dire il pranzo è servito, puoi dire buonasera. Quindi ho cominciato così, e poi una battuta tira l'altra, ma dire attrice forse è una parola troppo grossa. Però hai le physique du role, potresti anche... Ma preferisco fare la musicista, francamente. È molto meglio. Sì, e poi vado a introdurvi Silvia Manco, che io proprio apprezzo da tanti anni come musicista, pianista di jazz, nonché insegnante. Continua a insegnare, Silvia? Sì, mi capita. Ti capita? Lo fai in una scuola o lo fai privatamente? Entrambe le cose. Senti, come stai? Abbastanza bene, grazie. Felicissima di essere qui. Ma sono felice io di vedervi, ragazze. Allora, oggi parliamo del ruolo della donna nella musica. Però vuoi fare una presentazione? Per esempio, siccome il primo brano ha come protagonista Giovanna, che tra l'altro è presente in questa piccola grande orchestra che si chiama Bubez, e questo album deve essere pubblicato fra poco, no? Fra poco. Allora, vieni più vicino al microfono. Sì. Fra poco. Allora, che cos'è la Bubez Orchestra, Giovanna? È una piccola orchestra formata da tre elementi, però elastica, nel piccolissima, senso piccolissima, minuscola. Siamo Massimo De Lorenzi alla chitarra, Ermanno Dodaro al contrabbasso, io al violoncello. Siamo specializzati in musica di scena, abbiamo accompagnato 11 anni di spettacoli teatrali, e questo è un disco di percorso dove raccogliamo i temi, diciamo, quelli che amiamo di più del nostro percorso artistico. Francesco, raccontaci qualcosa di Giovanna Famulari. Sì, allora, artista triestina, ha studiato pianoforte, violoncello, canto e recitazione, si è diplomata presso il Conservatorio di Musica di Trieste, ha collaborato ad esempio con Tosca e con Mogol, ha suonato anche in diverse orchestre come ad esempio l'Orchestra Opera Giocosa, l'Orchestra dell'Opera di Barga, l'Orchestra Internazionale d'Italia e anche molte altre. È anche attrice, come abbiamo detto, ha fatto diverse interpretazioni in TV, anche al teatro, ha lavorato anche in radio per adattamenti di opere teatrali. Capito, ma quante cose fai, Giovanna? Bisogna fare di tutto per vivere di questo lavoro. Io non voglio rinunciare alla musica e a fare quello che mi piace. Senti, quando è nata la passione per la musica? In famiglia si ascoltava musica, perché non hai fatto il magistrato, per esempio? Perché mia sorella ci ha pensato. Io ero la pecora nera, amavo la musica, mio padre mi faceva sentire le sinfonie di Beethoven fino alla nausea, io le so quasi a memoria. E quando c'è stato, diciamo, il concorso al conservatorio, siccome io ero un po' irrequieta, diciamo, mi hanno fatto partecipare a questa audizione, mi hanno presa e io ho vissuto tutta la mia infanzia e giovinezza dai 9 anni in poi all'interno del conservatorio, dove mi sono diplomata e ho vissuto gli anni più belli della mia vita. Ecco, e continui a fare musica con soddisfazione, spaziando, perché vedo che lavori con tutti, insomma, dal teatro agli artisti affermati del pop italiano, formazioni jazz, insomma non ti fai mancare nulla musicalmente parlando. Come ti dicevo, sono un'irrequieta, curiosa, ancora probabilmente non so veramente che cosa voglio fare, quindi la curiosità mi porta, diciamo, anche ad esplorare discorsi musicali non proprio inerenti al mio studio. Ecco. Però quello che fai lo fai bene. E allora io direi di presentare subito la Bubez Orchestra, quindi questo trio con Giovanna Famulari. Questa è una loro composizione originale intitolata Pagliarillo. Che cos'è Pagliarillo? Tromba? Uccellino vuol dire. Hai capito? Parliamo della donna, il ruolo della donna nella musica, ne parliamo con Giovanna Famulari e Silvia Manco, nostre ospiti. Questo è il suono della Bubez Orchestra, album che sta per uscire, brano intitolato Pagliarillo. Allora Francesco, per andare subito al ruolo della donna nella musica, credo che te ci debba introdurre in qualche modo Papa Innocenzo X, perché ti è così simpatico? Cioè, in realtà non mi è simpatico per niente, perché allora intanto è stato incoronato Papa nel 1644, appunto mi sta molto antipatico perché considerava il ruolo della donna nella musica totalmente come qualcosa che inquinasse l'animo umano. Sì, infatti diceva Papa Innocenzo, poiché la musica è sommamente dannosa per la modestia, che è propria del sesso femminile, per proteggere proprio le donne dal mettersi in pericolo così con la loro reputazione, estendeva il divieto di ricevere una educazione musicale, Papa Innocenzo X. Poi alla fine, praticamente già dal 700, grazie al melodramma, il ruolo della donna anche nella musica diventa qualcosa di importante, quindi non soltanto le cantanti, ma appaiono anche musicisti. No? E allora parliamo di questo. Quanto è difficile vivere di musica? Oggi lo sappiamo, è difficilissimo per tutti, però per voi che frequentate un ambiente maschile, quanto è complesso, Silvia? Te che frequenti poi i maschiacci del jazz, Io frequento un ambiente veramente prevalentemente maschile, perché forse nella musica classica ci sono molte più musiciste, insomma, è più diffusa il fatto di suonare uno strumento, ma nel mondo del jazz prevalentemente maschile è veramente difficile, solo che io mi sono ostinata sin da subito, perché comunque questa musica è la mia passione e soprattutto paradossalmente nella mia famiglia, che è una famiglia del sud, il fatto di studiare musica e di amare la musica e di praticarla tra virgolette era del tutto normale, invece magari in altri contesti ho dovuto commentare e spiegare questa cosa in maniera che non mi aspettavo di dover giustificare. Ecco mi spieghi un attimo, avevi un piano di riserva, un piano B? Non ci ho mai pensato. Cioè, tu sapevi già da ragazzina che il futuro sarebbe stato nella musica? Mi sono detta che ci avrei dovuto provare, perché comunque ho seguito veramente semplicemente la mia passione, non ho mai pensato a fare qualcos'altro. Ecco, per parlare della tua passione e della tua musica, io vorrei presentare agli amici di Radio 24 una produzione che ti vede protagonista. Questo è un album prodotto qualche anno fa da uno dei migliori musicisti italiani di jazz, prodotto insieme a Roberto Gatto, sì. Album intitolato Afternoon Songs, e in questi giorni, sapendo della tua presenza qui al Sound Check, l'ho riascoltato con attenzione e ti devo dire la verità, è un disco bellissimo, è un disco ancora è un disco moderno, ecco, sono quelle produzioni che non passano mai di moda, e io consiglio agli amici in ascolto di acquistare Afternoon Songs, che credo sia presente anche su iTunes, insomma in qualche modo sarà facile rintracciare via internet questa produzione, che vede Silvia Manco con il suo pianoforte, la sua bella voce e le sue canzoni, affiancata da dei colossi del jazz italiano, dei nostri amici come Roberto Gatto alla batteria, Dario De Ida al basso elettrico e al contrabbasso, Fabio Zeppetella alla chitarra, il bravissimo Daniele Tittarelli al contralto e Giovanni Falzone alla tromba. Il disco è splendido, io non voglio perdere neanche un secondo ma a presentarvi questa composizione di Silvia Manco intitolata Le tue parole, qui al Soundcheck di Radio 24. Ritrovo il gusto delle tue parole, passano ma ne resta un buon sapore, le rigiro un po' come un nocciolo, poi le libero e viaggiano da sole. Soundcheck, il suono della musica. E oggi qui al Soundcheck, per anticipare la festa della donna di domani 8 marzo, abbiamo invitato la bellezza in persona, ovvero il talento e l'arte di Silvia Manco e l'arte e il talento di Giovanna Famolari. Quest'ultima violoncellista, pianista, cantante, arrangiatrice, compositrice di tutto di più. Lo ripeto, attrice a tempo perso, mi piace questa cosa, Giovanna. Silvia Manco, abbiamo ascoltato questa sua bellissima composizione da Afternoon Songs, quindi avrete capito che vi stiamo parlando di una meravigliosa pianista, cantante e compositrice. Allora, tanto per provocarvi, vi leggo questa cosa, vi parlo proprio del 600, facciamo un salto proprio nel passato. L'educazione di una fanciulla del 600era di solito rudimentale, lettura e scrittura, elementi di aritmetica, ma soprattutto cucina e cucito. L'educatore vigila anzi sulle letture delle giovani, considerate facilmente corruttibili e prive di grandi capacità intellettive. La musica è considerata inoltre strumento di perdizione e di lascivia. I suoni, i canti e le lettere che sanno le femmine sono le chiavi che aprono le porte della pudicizia loro, diceva Pietro Aretino dal primo libro delle lettere, Venezia 1538. Come la mettiamo? Pausa di riflessione, notato, tromba. Come state messe voi con la cucina e con il cucito? Ma io, per esempio, io vorrei lasciar parlare lei, perché io sono negata, cioè non sono portata per niente, per scusa, nessuna attività casalinga. Quando vai in scena, se perdi un bottone, come fai? Ma no, cioè sì, posso anche cucirmelo, però non sono votata alle cose casalinghe, non mi piacciono particolarmente. No, perché una musicista non ha il tempo di mettersi a no, soffrigere. Io ho molte amiche violoncelliste, anche insomma musiciste molto brave, che sono grandi cuoche, no? È proprio una mia... Non hai la passione? No, non ho la passione. Però mangi, no? Sì, ma diciamo proprio basic, sono molto... Senti Silvia, allora questa cosa non ti colpisce? Insomma, c'è stata una bella evoluzione, un bel passo avanti, no? Stiamo parlando del 1600, l'uomo era una bestia, no? No, direi proprio di sì. Comunque, insomma, ci si scontra ancora con alcuni pregiudizi, capita. Tipo? Ma, per esempio, capita di dire la propria opinione riguardo delle cose che si ascoltano, delle cose che si fanno e viene richiesta, diciamo, una sorta di competenza che non viene data per scontata, insomma viene, come dire, pretesa, e uno la mette in campo e si, insomma, è così, si... Quindi, tu dici che insomma anche nell'ambiente contemporaneo si è prevenuti nei confronti di una donna? Beh, è come se... Nella musica, parlo di musica. Beh, sì, un po' bisogna dimostrare, per esempio capita nella gestione di gruppi o di band, eccetera, di dover dimostrare comunque di poter essere in grado di dirigere un gruppo di musicisti. Sì, proprio di gestire un organico. Organico, sì, sì. Anche non solo per faccende legate strettamente alla partitura, alla musica, agli arrangiamenti, no, ma anche nel quotidiano. Cioè, non solo perché si prepara il caffè, diciamo, certo, nella pausa delle prove, ma perché anche... Sì. Però fortunatamente abbiamo delle direttrici d'orchestra che quindi devono avere polso non solo con la bacchetta nel dirigere, ma anche per gestire organici estesi. È vero? Sì, ad esempio come Xian Zhang, che è stata la prima donna ad aver diretto una sinfonica italiana e anche diretto la mitica orchestra di Dresda, o anche la direttrice Susanna Malchi, che è stata la prima a dirigere alla Scala di Milano. Quindi diciamo la domanda era qual è ad esempio la differenza fra queste donne che hanno fatto comunque qualcosa di rivoluzionario è quello che fanno magari le semplici pop star, cioè questo completo distaccamento, diciamo, nel ruolo della donna nella musica, tra l'acme appunto raggiunto da queste due direttrici d'orchestra e le pop star. Siccome la domanda è complessa e sarà complicato anche rispondere, io direi di ascoltare prima la musica e poi rispondiamo dopo, così avete il tempo di metabolizzare questa domanda del nostro Francesco Tromba. Allora passiamo a Flamentango, questo è il nome della band, Giovanna? Flamentango, sì. E questa è un'altra formazione, sì, che ti vede protagonista. Sì. Il disco è stato pubblicato però questo. Sì, sì, sì, questo sì. Allora, Flamentango Project, il brano si intitola Jour Noir, esatto? Jour Noir. Ecco. Anna Famulari con il suo violoncello, protagonista con Flamentango Project qui al Soundcheck di Radio 24. Torniamo alla domanda di Francesco Tromba, che sinceramente non ho capito neanch'io. Tu mi stavi parlando delle direttrici di orchestra rivoluzionarie, cioè delle donne che con la bacchetta in mano riescono a tenere a bada un organico esteso di 40, 50, 60 elementi. E poi parlavi delle pop star, ma esattamente la domanda qual è, Tromba? Che dal mio punto di vista, ad esempio, c'è un difetto di comunicazione, nel senso che vengono notate molto di più le pop star che magari non hanno neanche tanto talento e si esprimono semplicemente ballando, mostrando il fisico, rispetto a comunque queste donne direttrici d'orchestra che hanno fatto qualcosa di rivoluzionario, cioè sulla stampa, in televisione viene data maggiore considerazione appunto alle pop star rispetto a queste altre donne. Scusa, la risposta te la sei data da solo, perché tu hai parlato di pop star. Se è pop star è normale che si parla della pop star più di una direttrice d'orchestra. Se Giovanna Famulari salisse sul palco con un perizoma ghepardato, sicuramente si parlerebbe anche di più di lei, no? Bisogna... Che dici? Vuoi che ci provo? Secondo me potresti anche farlo, no? Perché non avverti che quando sali sul palco con un abbigliamento, diciamo, femminile e sexy, non senti su di te certi sguardi? Ma indubbiamente, però non so se questo aiuta la professionalità, ecco. Beh, diciamo che però se hai è una questione di scelte di professione che vuoi fare. Se avessi voluto fare un certo tipo di professione, probabilmente non avrei esitato a mettermi il tanga, ecco. Ma io credo che né io né Silvia abbiamo bisogno di metterci il tanga, dai. Cioè, ognuna di noi porta avanti un suo pensiero, un suo talento. Sei soddisfatto, no? Tromba? Sì, sì. No, vuoi indagare, puoi andare avanti, no? Con la tua complessità. Non ho capito dove vuoi andare a finire. Cambiamo domanda, va bene. Allora, tornando, scusate, è fatto così, d'altra parte avete capito come si chiama, sì, no? Sì. E quindi nella giornata della donna mi sembra perfetto, è il dottor Tromba, eccolo qui. Allora, vorrei tornare alla musica e farti ascoltare, mia cara Giovanna e mia cara Silvia, vi vorrei far ascoltare il nuovo album di un tuo collega, Giovanna. Io lo amo con tutta me stessa. Ecco, guarda, di chi stiamo parlando? Di Jacques Morellenbaum, uno dei grandi violoncellisti, ma non soltanto, è un arrangiatore straordinario, un compositore. Un grandissimo artista. Senti, ce l'hai questo disco? No, è nuovissimo, appena pubblicato. Me lo compro. Si intitola Cello Samba Trio e questo è un po' come la Bubez Orchestra, che è un magari trio, anche questo è un trio con tanto di percussioni e un eccellente chitarrista, e ha anche un titolo interessante, Saudagi do Futuro, Futuro da Saudagi. Saudaci. Saudaci, saudaci a tutti. Allora, vi faccio ascoltare il talento di Jacques Morellenbaum. Il brano è proprio Receita G-Samba, la ricetta del samba, una vecchia composizione di Jacob do Bandolim, rivisitata da questo incredibile trio con il violoncello in grande evidenza. Soundcheck. Il suono della musica. Violoncello di Giovanna Famulari, nostra ospite in evidenza con la Bubez Orchestra, album che sta per essere pubblicato. Il brano era Overture Donna Flor, una sua composizione che nasce come? Qual è l'ispirazione per questo brano, Giovanna? Diciamo che è stato composto per raccontare la storia di Donna Flor e i suoi due mariti, di Jorge Amado. Diciamo, siccome c'è una grande vena ironica in questo testo, ho cercato di iniziare con questo aspetto della morte, di lui che muore, però poi in realtà è un testo divertentissimo, ironico. Senti, questa produzione della Bubez Orchestra, che tipo di pubblico ha come riferimento? Che tipo di target? Per gli appassionati di musica classica, di jazz, pop? Perché c'è un po' di tutto, no? Sì, spaziate dal classico al tango. È vero, è un po' varia. In realtà non lo so, sarà una sorpresa, magari non lo sentirà nessuno. No, può anche essere, diciamo che è un'esigenza che abbiamo. Allora, volevo sapere da Silvia se ha delle donne importanti nella sua formazione musicale. A chi ti sei ispirata, per esempio, come pianista, anche come cantante? Quali sono gli esempi che hai seguito? Sono moltissime, anche perché appunto nel jazz ci sono state molte donne importanti, da Mary Lou Williams a Shirley Scott. Un mio punto di riferimento molto chiaro è sicuramente Shirley Horn, che era una grandissima pianista, accompagnatrice di se stessa mentre cantava in una maniera unica al mondo, e quindi insomma sono questi fondamentalmente i punti di riferimento ai quali se ne collegano molti altri, ma la radice è questa, sì. Vi faccio ascoltare che c'è, tromba? Di cosa volevi parlare? Visto che stavi reagendo in qualche modo. No, ho visto qual è il prossimo brano. Ah, bravo, hai fatto bene. Allora, sì, perché giochi di anticipo come sempre, come piace a me. Sì, perché il prossimo brano ha come protagonista una donna fantastica. E stiamo parlando di Joni Mitchell. Una voce unica, una formidabile compositrice che in questa occasione canta un classico del repertorio soul R&B, ma poi in questa chiave anche jazzistica e sinfonica, perché l'arrangiamento dell'orchestra è stato realizzato dal meraviglioso Vincent Mendoza. Un album del 2000, Both Sides Now, e vi stiamo parlando di At Last. Quindi Joni Mitchell chiude la prima parte del soundcheck, poi ci sarà l'informazione e ci ritroviamo qui dal Groovemaster Studio con Giovanna Famulari e Silvia Manco, e naturalmente il dottor Tromba in persona. Dopo. At last, my love has come alone. My lonely days are over, and life is like a lovely song. Oh. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Puntuali dopo l'informazione di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio per la seconda parte del Soundcheck, la prova del suono. Sì, oggi trattiamo come argomento il ruolo della donna nella musica in compagnia di Giovanna Famulari, violoncellista, protagonista con la Bubez Orchestra, ma anche altri esperimenti sonori dei quali abbiamo parlato, e la bravissima Silvia Manco, pianista, cantante di jazz, che sono felicissimo di vedere. Come state? Bene. Allora, ho trovato delle altre cose che riguardano il ruolo della donna nella musica, ma nel 600. Quindi attenzione, perché qua dice che praticamente nelle famiglie borghesi a una fanciulla che abbia la fortuna di nascere in un ambiente intellettuale e colto è permesso talvolta studiare musica. I maestri di musica insegnano a suonare uno strumento ai figli, indipendentemente dal loro sesso, anche se col passare del tempo le donne sono spesso destinate a dimenticare ciò che hanno imparato, non avendo sbocchi professionali per esercitare il mestiere di musicista. La possibilità di lavorare in campo musicale, come suonare uno strumento in un'orchestra o in una cappella, rimane infatti una prerogativa maschile. Le poche musiciste professioniste sono prima di tutto cantanti. Quindi, quanto è difficile oggi vivere di musica? A parte il fatto, cioè, non parlo per un uomo o per una donna, ma quanto è difficile vivere di musica per uno che vuole fare il musicista e non aspirare a diventare una pop star, come diceva il nostro Francesco Tromba? Beh, intanto quello che hai appena detto corrisponde anche ancora un po', insomma, alla realtà di oggi, perché per vivere di musica, per studiare musica, ci vogliono anche dei capitali economici. Io, per esempio, che sono violoncellista, il mio primo strumento, se non avessi avuto la mia famiglia, non me lo sarei mai potuto permettere, perché parliamo di migliaia di euro, di investimenti costanti, le corde costano tanto, gli archetti, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Detto questo, quando si comincia non è che ti iscrivi al conservatorio, paghi lezioni private, quindi una famiglia medio borghese sensibile alla musica, che ti introduca, diciamo, alla musica, ci deve essere. Quindi un po', ecco, questo non è cambiato. Sì, questo è quello che mi hanno detto degli amici che si sono spostati dall'Italia e studiano alla Berklee School of Music a Boston, alla Juilliard a New York, e per avere quel tipo di lezioni, ecco, per frequentare quei corsi ci vogliono veramente tantissimi soldi, quindi non è facile, non è per tutti. No, non è per tutti, e c'è anche del vero riguardo all'aspetto della professione, perché io, per esempio, che sono una pianista, conosco moltissime pianiste diplomate che poi dimenticano completamente quello che hanno studiato, proprio perché non trasformano i loro studi in una professione, e quindi magari procedono parallelamente a studiare anche all'università altre cose, e poi prevale magari un'altra professione, e dopo anni si ricordano di aver magari speso la maggior parte della loro giovinezza a studiare anche il pianoforte, ma rimane una cosa lontana. Per avere a che fare con la musica tutti i giorni bisogna suonare tutti i giorni, esatto, me. E allora quindi si studiava musica così, come passatempo, nel 600, e mi stai confermando che forse ancora oggi è così. In alcune famiglie esiste un pianoforte, magari a coda, che io non ho mai avuto, e che è una specie di mobile con sopra i centrini e i vasetti, sì, di fiori, eccetera, che a volte rimane lì per decenni senza mai essere nemmeno aperto. Quindi questa è una cosa che mette una tristezza infinita. Ed è tristissimo leggere che poi, soprattutto per una donna che non riusciva a sposarsi, perché poi l'obiettivo di una donna allora era quello di convogliare a nozze con un uomo ricco, no? Bello e ricco, il principe azzurro, e c'era un'unica destinazione per le donne singole allora, che era il convento, ok? E parleremo di questo, ma dopo avervi fatto ascoltare il talento di un musicista che io stimo tantissimo, contrabbassista, compositore, ne abbiamo parlato più volte qui al Soundcheck, ma da poco è stato pubblicato il nuovo album che si intitola Origami for the Fire, protagonista il bravissimo Alan Hampton con la sua voce. Ascoltate questa composizione molto interessante, armonicamente complessa e anche emozionante. Il brano si intitola Keep It in Your Dreams, tienilo stretto nei tuoi sogni, e tutti noi abbiamo un sogno magari nel cassetto. Alan Hampton al Soundcheck di Radio 24. And you won't see me, so I don't ever have to know about your fantasy. so chi per il gin, chi per il gin, chi per il gin. Soundcheck, il suono della musica. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Classico del jazz, The Very Thought of You, rivisitato dalla voce del bravissimo Sashal Vasandhani qui al Soundcheck di Radio 24 in questa puntata dedicata alla donna, per la festa della donna che arriverà domani, puntualissima l'8 marzo, con tanto di mimose. Hai portato le mimose alle nostre ospiti? Sì, ce l'ho di là in macchina. Di là in macchina, saranno ammuffendo, va bene. Sì. Giovanna Famulari e la bravissima Silvia Manco, nostre ospiti. Io vorrei, posso continuare il raccontino per il ruolo della donna nel 600, mi sembra interessante, no? Perché poi a un certo punto finalmente la donna viene liberata e vedremo il merito a chi dovrà andare. Praticamente le donne, ragazze, avevano due possibilità, no? O quella di sposare un uomo ricco nel 600, oppure, e quindi con una bella dote da parte della famiglia benestante, ma le sorelle, per esempio, erano costrette a fare vita monastica e quindi venivano chiuse in un bel monastero dove si suonava la musica. Però a un certo punto la chiesa, siccome succedevano scandali anche sessuali, lo sai, trombano? Sì, come viene anche raccontato nei Promessi Sposi. No? Esatto, bravo, vedi che non ti sfugge nulla da comunicatore. E praticamente la chiesa inizia a proibire l'uso degli strumenti nei conventi perché probabilmente a causa della musica, ecco, parlavamo del blues, la musica del diavolo, succedevano anche questi scandali. Ma il talento di queste suore sugli strumenti, l'approccio con la musica è talmente forte che a un certo punto c'è qualcuno che inizia a interessarsi e quindi c'è una piccola rivoluzione. Finalmente le donne, per merito delle suore, diventano protagoniste nella musica. Infatti mi dicevi, Giovanna, che sono state scritte anche delle composizioni importanti. Antonio Vivaldi, il prete rosso, aveva composto per, non so, il concerto per violoncelli, varie composizioni, quindi evidentemente erano molto brave, erano molto preparate. So che si trattava per lo più delle sue allieve orfane che appunto presso le suore avevano la fortuna di avere Vivaldi come maestro e quindi insomma ha saputo Vivaldi tirare fuori anche il loro talento e scrivere delle cose anche molto complesse che provava attraverso loro. Senti Giovanna, tu sei anche mamma. Sì. Hai due figlie. Sì. Grandi, che età hanno? 23 Alice e 21 Flo. Quanto è stato complicato per te come musicista, come professionista, gestire anche la maternità, dare un'educazione a queste ragazze? Come hanno vissuto il tuo ruolo da musicista sempre in giro? Beh, non è stato facile, indubbiamente. Diciamo che per 6 anni ho appeso il violoncello al chiodo, perché quando sono piccole non è che puoi partire, andare in torneo o altro. Poi, chiaramente, a parte che il fuoco dentro ti porta a dover riprendere. E io per molti anni ho lavorato nella musica classica, quindi insomma facevo concerti. Neanche forse l'esigenza di seguirle un po' di più mi ha portato poi a fare anche altre scelte, diciamo. Però ce l'ho fatta, perché sono due ragazze in gamba, quindi evidentemente. E hanno scelto la musica come la mamma? No, la musica no. E a te dispiace o sei contenta? Ma guarda, a me dispiace, anche se non penso che necessariamente amare la musica significa praticarla. Si può ascoltarla, apprezzarla, ci vogliono anche degli ascoltatori, perché altrimenti chi la sente, quella che magari uno produce o crea. E noi ai nostri ascoltatori da un po' di tempo, con il nostro Francesco Tromba, stiamo parlando di una cantante favolosa. Sì, Shaina Stili. Sì, siamo un po' innamorati tutte e due. Sì, abbastanza. Abbastanza. Abbiamo tentato anche il contatto, speriamo di riuscire a proporvi anche una intervista, magari via Skype, con questa ragazza che è stata in tournée anche in Italia, e quindi praticamente stiamo suonando un brano al giorno. In ogni puntata del Soundcheck da un po' di tempo c'è Shaina Steele. Lo merita, il suo nuovo disco lo merita. Allora, visto che abbiamo ascoltato la voce di Sasha Alvasandani, sappiamo che sono amici, e quindi anche Sasha Alvasandani collabora a questo disco intitolato Rise, cantando con la bravissima Shaina Steele questo brano splendido intitolato Can't Let You Go, qui al Soundcheck di Radio 24. I can't see all that's left behind me. Shadow is the only thing from yesterday. Territory, a traveler on my way. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, quindi nel 600 la musica veniva proibita proprio da Papa Innocenzo X in persona, amico di Francesco Tromba, per le ragazze, perché motivo di turbamento, e quindi si poteva suonare soltanto nei conventi, anche se pure lì la musica veniva proibita per il fatto che molto spesso succedevano scandali sessuali per colpa della musica, Tromba? No, decisamente no. Decisamente no, però certamente la musica può turbare, Silvia. Beh, la musica mette a contatto con una parte molto profonda di se stessi, quindi può turbare, può emozionare, può far capire certe cose, rivelare degli aspetti della vita che magari in altro modo non vengono messi così in evidenza. Parlando delle donne importanti nella storia del jazz, pensi che la Chiesa anche per loro abbia avuto un ruolo importante e decisivo? Penso proprio di sì, soprattutto in ambito afroamericano. Molte artiste si sono formate proprio dietro i banchi, diciamo, delle chiese battiste, quindi spesso suonando degli strumenti. Molte erano organiste, pianiste, direttrici di coro, e quindi anche la chiesa in questo senso, la cerimonia diciamo che si fa nelle chiese battiste è stata molto importante nella formazione di alcune musiciste. Dimmi un attimo, tu insegni musica, fra i tuoi allievi hai maschi e femmine, no? Sì. C'è un approccio diverso? Trovo che le ragazze siano molto più reattive e molto più libere per certi versi, anche nelle scelte. Vogliono fare cose diverse, non necessariamente classico, non necessariamente moderno, mentre gli uomini si lasciano guidare di più e sono così più passivi per certi versi. Senti Giovanna, rispetto a un musicista, una musicista, che cosa ha di speciale? Beh, prendo ad esempio due figure a cui io sono molto legata, Pablo Casals e Jacqueline Dupré. Se tu ascolti due brani identici eseguiti da loro, non riesci a capire chi è la donna. Nel senso che, secondo me, il carattere femminile o maschile non è percettibile. Conosco molte donne che sono molto maschili nell'approccio con lo strumento, se parliamo di musicalità. Quanto è stato difficile per te, Silvia, lavorare con questi pezzi da 90 del jazz italiano come Roberto Gatto, Dario De Ida, Fabio Zeppetella, Tittarelli, Giovanni Falzone, per la realizzazione di Afternoon Songs? È stato molto difficile, lo ammetto, perché io non pensavo, ma avevo in realtà una mia idea di come si sarebbe dovuto svolgere il lavoro. Però ho deciso, proprio perché avevo bisogno di uno sguardo esterno, di affidarmi in particolare alla produzione artistica di Roberto Gatto, che ovviamente da musicista affermato e con una personalità molto forte aveva la sua idea. Quindi io ho fatto molta fatica a cercare di mediare, diciamo, la mia posizione, dato che si trattava del mio disco, e però volendo anche giustificare il fatto di essermi affidata qualcuno di cui mi fidavo molto, e quindi non è stato facile per niente, ma il risultato poi mi ha dato ragione, diciamo, all'intuizione di entrambi. Ecco, nel repertorio ci sono composizioni originali, poi c'è anche qualche brano che non hai scritto tu, come questa bellissima versione di Poinciana. Perché hai scelto Poinciana, a parte che è una composizione bellissima? È una composizione bellissima, estremamente evocativa. Poi tornavo da un viaggio in Africa, dove avevo visto questi alberi bellissimi di cui non sapevo il nome, però non sapevo come si chiamassero, e così, girando su internet, a un certo punto ho realizzato che si chiamavano Poinciana, e quindi mi è sembrato un segno e ho scelto questo brano tra i tanti che avevo in mente. Low tropic wind, sing a song through the trees. Troverete questa versione di Poinciana nell'album Afternoon Songs di Silvia Manco, nostra ospite insieme a Giovanna Famulari, per parlare del ruolo della donna nella musica, visto che domani è proprio la festa della donna, 8 marzo. E questo è uno standard rivisitato con la perizia di Roberto Gatto, Dario De Ida, Fabio Zeppetella, Daniele Tittarelli e Giovanni Falzone, e c'è, mia cara Silvia, una ragazza che io ti voglio far ascoltare, poi mi direi cosa ne pensi. È un'allieva di Gretchen Parlato. Si chiama Lauren Desberg, giovanissima, americana newyorkese, anche lei appassionata di jazz, ha studiato, si è diplomata, e insieme proprio alla sua insegnante, Gretchen Parlato, realizza questo arrangiamento di You Go To My Head, un altro classico del jazz, e lo propongo ai nostri amici di Radio 24, e poi mi dirai che cosa ne pensi. Soundcheck, il suono della musica. Sì, appuntamento del soundcheck dedicato alla donna, alle donne, dedicato anche alla bravissima Silvia Manco e a Giovanna Famulari, nostre ospiti, che io ringrazio per la partecipazione, e vorrei chiedere a Francesco Tromba di iniziare ad aprire il pianoforte per Silvia, e forse, Giovanna, è arrivato anche il momento di far respirare questo bel violoncello che tieni ancora sotto chiave, è giusto? Vado ad aprire la custodia. Vai a aprire la custodia? No, potete suonare qualcosa, no? Vi va? Certo che c'è, eh? Non è un obbligo, non è un obbligo, no, mai per comando, lo sapete. Siamo onoratissime, siamo Senti, molto felici. E sapete che cosa ci suonate? Sì, abbiamo cercato, diciamo, di venirci incontro, dato che siamo due musiciste di estrazione diversa, nel senso io sono una pianista di jazz e Giovanna è una violoncellista che ha fatto moltissime cose, ma di formazione classica, e quindi abbiamo deciso di suonare un mio brano che si intitola Carcajadas, che è appunto dedicato ad una donna, Frida Kahlo, e un brano invece bellissimo che io ho sentito suonare a Giovanna tempo fa, tratto dalla colonna sonora di un film meraviglioso che si chiama In the Mood for Love, ed è il tema principale del film, con il violoncello assoluto protagonista. Allora, ragazze, potete prepararvi. Io intanto voglio anticipare Francesco Tromba. Attenzione, perché vedrai, avrai la dimostrazione di quello che ti stavo dicendo, del perché la violoncellista è l'elemento sexy di un'orchestra sinfonica. Sono ansioso di vedere, di godermi lo spettacolo. Allora. Va bene, allora ascoltiamo Giovanna Famulari e Silvia Manco qui al Soundcheck di Radio 24. Le ragazze sono più o meno pronte. Buon ascolto a tutti dal vivo qui dal Groovemaster Studio. Grazie, ma che bellezza, che bella sorpresa. Silvia Manco e Giovanna Famulari qui dal Groovemaster Studio per chiudere il soundcheck di Radio 24. Grazie e auguri per domani. Si fanno gli auguri per la festa della donna? Sì, sono sempre ben accetti, perché no? Ecco, ma mi sembra che sia quasi più la scusa per le ragazze per andare da solo a da sole a cena. Mai fatto. Ma nemmeno io. E anche per comprare mimose in quantità, per vendere mimose in quantità. Allora, io vi voglio dedicare un brano intitolato Sugar Daddy, ve lo voglio far ascoltare. È praticamente una storia d'amore e di sesso raccontata dal signor D'Angelo dall'ultimo album Black Messiah, che sta avendo un grandissimo successo. E per esempio, tu conosci D'Angelo, Giovanna? No. Allora te lo faccio vedere. Andresti a cena con questo signore? Sì, anche no. Non so la cena, direi. Hai capito? Bello, questa foto è di 15 anni fa. Vabbè, non gli facciamo vedere come sta messo adesso, però voglio dire, capito, tromba, come stanno le cose. Alla fine anche tu ti devi far venire gli addominali scolpiti, se no niente cena con le violoncelliste. Grazie a tutti voi, buonasera, buona musica da Giorgio Telesforo. Ci risentiamo domani dalle 15.30, poi seconda parte a partire dalle 19.15 con un ospite fantastico, un altro musicista incredibile e creativo come Mauro Ottolini e i suoi Sousaphonics qui al Soundcheck. A tutti voi buona serata e buona musica con D'Angelo. Grazie ragazze. Grazie Giorgio. Grazie, ciao. Grazie a voi, grazie. Her price things hang on my arm. Lace settings coming up all time.